la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento della prima volta. L'ospite di oggi è Luciano Scandariato, un atleta, un uomo che partecipa, fa parte del team di Special Olympics. Luciano, intanto, ben arrivato qui da noi alla prima volta. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, grazie dell'invito. Ma figurati, adesso poi spieghiamo anche bene ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta. Infatti la prima domanda che volevo farti è, visto che l'ho già un po' anticipato io, se puoi raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è Special Olympics. Allora, Special Olympics è un movimento internazionale che fa parte, che si occupa di far praticare dello sport alle persone con disabilità intellettiva e non. Nasce nel 1968 a favore dei diritti survivor crimini, mentre in Italia nasce nel 1984. Ecco, quella di Special Olympics per te diciamo è un'avventura che in qualche modo ti ha cambiato la vita in maniera netta, totale, giusto? Sì, praticamente è nato per caso, perché io diciamo che nel... praticamente da quando ero piccolo venivo preso in giro per la mia fisionomia, quindi non uscivo mai di casa. Perché qual era il problema? Cos'è che ti dicevano? Cos'è che succedeva? Magari un po' con gli occhi, con la faccia, col viso, insomma, quindi venivo preso in giro. E quindi non uscivo mai di casa, andavo soltanto a fare la spesa, eccetera, quindi poi non uscivo, insomma, non uscivo, quindi non avevo, non ho pochi gli amici che avevo. Quindi poi ho detto, per fortuna o purtroppo, nel 96 mi è venuta una malattia alla mano sinistra e quindi facevo fisioterapia in un centro di riabilitazione. Questo ogni tanto, ogni 6-8 mesi veniva, facevo le visite di routine di controllo e quindi mi fu consigliato di fare il nuoto. Quindi al 2001 sono entrato a far parte in Special Olympics nelle nuoto. Quindi diciamo però totalmente la vita, sì. Per una questione proprio fortuita, nel senso che tu per caso ti sei ammalato e nella malattia hai trovato delle persone amiche, cioè hai incominciato ad avere una vita sociale che fino ad allora ti era preclusa perché c'erano persone che si prendevano gioco insomma della tua disabilità. Prima, se si trattava di bambini, insomma, lasciamo un po' correre, ma quando si trattava di adulti, quello mi dava fastidio, molto fastidio. Quindi, tu dov'è da dove vieni? Qual è il paese? Io vengo da Carbonia, provincia di Carbonia e Brugesas, o comunque era ex provincia Cagliari. Quindi anche una provincia piccola e mentre prima avevo paura magari di uscire, oggi praticamente mi telefono per sapere se ci sono in casa per venire a trovarmi in casa, quindi c'è totalmente cambiato anche in un'altra cosa, ad esempio. Prima si facevano i viaggi della speranza, si andava a Milano, Roma, Genova per fare le visite mediche. Oggi si fanno quindi i familiari, i genitori comunque erano tristi, erano infelici, eccetera. Oggi invece si fanno i viaggi della speranza, dove si è soddisfatti del protagonismo, insomma. Si fanno viaggi per i giochi nazionali, internazionali e mondiali, dove i nostri primi tifosi sono i genitori, i familiari. Grazie anche ai volontari tecnici che ci stanno vicino, ci accompagnano nel nostro lungo tragitto, insomma, dello sport, in Special Olympics e tutto, anche nella vita esterna. Senti, Luciano, tu quando hai iniziato a praticare Special Olympics, cioè ti hanno detto ma perché non provi a fare questa avventura, perché non entri in questo team, fai dello sport con altri ragazzi con disabilità e anche senza disabilità, ti ricordi quando hai iniziato, con che spirito hai iniziato, cosa ti sei detto? Hai detto ma proviamo, vediamo, cosa è successo? Raccontaci quella prima volta, quel momento lì. Guarda, io mi ricordo benissimo perché ho iniziato, era il maggio del 2001, ho iniziato a fare nuoto, quindi siccome io non sapevo nuotare, quindi avevo la cintura, il tubo e i braccioli e non mi staccavo dal bordo per niente. Cioè, è venuto quasi un anno per imparare un po' a nuotare, insomma, quindi è stata una bellissima esperienza, proprio ho imparato a nuotare, ho partecipato ai primi miei giochi nazionali di nuoto nel 2004 a Roma, e lì vinsi la medaglia d'oro, ma non è solo la medaglia d'oro che ho vinto, cioè proprio non saper nuotare fino all'anno prima e poi ci arrivare a questo traguardo bellissimo che non mi aspettavo. Quindi, invece i miei primi giochi nazionali sono stati nel 2001 a Fiuggi, di calcio a 5. Ecco, il calcio come è stato, come è entrato nella tua vita? Allora, il calcio è entrato nella mia vita dopo, cioè subito appena entrato in nuoto mi sono chiesto se volevo fare del calcio, e quindi già c'era anche il calcio, quindi poi da lì ho fatto tutt'oggi faccio pallavolo, faccio basket, pallavolo unificato perché giochiamo con le studentesse di un liceo di qua di Carbuglia. Ecco, quello che volevo chiederti è, tu l'hai raccontato molto bene, no? Cioè tu avevi una vita di fatto molto sola e anche molto protetta, no? Quindi questa famiglia che in qualche modo era anche nella chiusura, si stava spegnendo, si stava intristendo. Invece adesso, attraverso l'apertura, la partecipazione a questi sport di Special Olympics, dici non solo sto viaggiando, ma mi sto aprendo al mondo, ad altre esperienze, e ho una rete di amicizie, le persone mi vedono diversamente, mi cercano in una maniera diversa. Quindi lo sport ha cambiato anche la tua immagine nelle persone di Carbonia, forse anche tra coloro che in qualche modo ti hanno preso in giro negli anni precedenti. Sì, infatti, ma non solo di Carbonia, perché poi andando fuori, ripeto, anche in regione, perché facendo dei giochi regionali, comunque manifestazioni speciali, riesco a conoscere altre amicizie, altre storie, quindi condividiamo tutto, quindi sono veramente contento e felicissimo di ciò che faccio, di ciò che ho trovato, quindi grazie a Special Olympics ha cambiato totalmente la vita in meglio. Luciano, cosa ti senti di dire a chi invece magari in questo momento sta vivendo una situazione di isolamento come quella che avevi vissuto tu da ragazzino? Io mi sento di dire questo, cioè provare a portare i loro figli, le loro figlie alla manifestazione Special Olympics e vedranno che non se ne staccheranno più, perché è veramente splendido, un modo veramente splendido. Tu quanto ti alleni in una giornata tipo? Allora, io le dico i giorni in cui faccio attività, lunedì faccio calcio di 2 ore, martedì e giovedì faccio nuoto, mercoledì basket e venerdì pallavolo. E quindi praticamente sei sempre preso? Sì, sempre, sì. E qual è lo sport, la disciplina che prediligi? Questa è una domanda, la più che prevedibile è il calcio sicuramente. Perché? Ma forse anche un po' sport di squadra, quindi mi confronto anche con i miei compagni e quindi è molto bello come sport. Luciano, adesso ti dico di aspettare un attimo perché ci dobbiamo fermare per qualche istante e torniamo tra pochissimo. È la prima volta che vengo e che faccio le gare. Andati asi e voglio galleggiare, che oggi vinco. Qui ho trovato tanti nuovi amici. Per me lo sport è Collele. Collele è la mia vita. La prima volta. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su intelligenza artificiale, cyber security, cloud e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. La prima volta. a cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati, dunque, puntata sportiva. Ospite, come avete sentito anche nella prima parte, Luciano Scandariato, che partecipa in qualità di atleta alla 17esima edizione di Special Olympics dal 27 maggio al 4 giugno, e nell'ambito di questa manifestazione ci sarà la European Football Week, la settimana europea del calcio Special Olympics, che è uno degli eventi di punta di questo movimento sportivo che sta aiutando migliaia di ragazzi a uscire dall'ombra e mettersi letteralmente in gioco, come avete sentito anche nel racconto nella prima parte della prima volta. Dal 27 maggio dunque al 4 giugno saranno 45.000 atleti con e senza disabilità intellettiva provenienti da 50 paesi a scendere nei campi di calcio di tutta Europa, e noi abbiamo deciso di raccontarvi questa storia, questa cosa, attraverso l'esperienza di Luciano. Luciano, tu hai detto che partecipi di fatto a Special Olympics dal 2004. Ti ricordi? Nel calcio hai iniziato nel 2001. Ecco, allora volevo chiederti, la prima volta che sei sceso in campo, che emozione hai provato? Allora, la prima volta che sono sceso in campo è stata un'emozione bellissima, anche perché mi sono posto due obiettivi, e anche questo praticamente sono tanti gli obiettivi che ho affrontato e superato, o in parte superato, per quanto riguarda con lo sport, quindi con Special Olympics. La prima è prendere l'aereo, perché non l'ho mai preso, quindi già salire, cioè essendo in Sardegna o si va in nave o si va in aereo fuori, quindi non si può andare, se non si può andare diversamente. La seconda volta possono essere varie piccole cose, però per me sono state molto importanti, è prendere l'ascensore, quindi normalmente oggi capita che lo prendo anche da solo, mentre prima non avevo anche paura di prendere quello. Mentre la prima cosa più bella che ho comunque mi sono posto dei piccoli obiettivi a Fiuggi, era la prima cosa è segnare un gol, e la seconda è vincere una partita. Quindi tutte e due sono arrivati gli obiettivi che mi ero prefissati, che era una cosa che ci tenevo tantissimo, ci sono riuscito. E com'è stato quando hai segnato il tuo primo gol? No, è stato fantastico, bellissimo, e ancora oggi me lo ricordo, sì, è stato molto bello. E i tuoi genitori come hanno partecipato a questa tua avventura che sta continuando ancora oggi? Allora, mia mamma mi seguiva fino a qualche anno fa, però adesso per problemi di salute non può seguirmi, tipo fuori, quando andiamo ai nazionali non mi può seguire, quindi... capita, magari se siamo molto vicini a casa magari ci si fa, perché non potendo camminare bene non ce la fa a partecipare, però è sempre col cuore, sempre con la mia presenza, mentre mio padre non c'è più da 2000. Quindi tu di fatto com'è che viaggi? Prendi gli aerei, vai in ascensore? Sì. Dicevi, hai superato queste paure di fatto da solo? Sì. Anche se tutt'oggi l'aereo ho sempre paura, però riesco un pochettino ad affrontare, insomma, la vita lo stesso, riesco un po' ad affrontarlo. E magari durante il viaggio parlo per cercare di passare il tempo prima, quindi cosa che non ci riuscirei magari facendo un Roma a New York, perché magari sono 9 ore di volo, quindi non riuscirei sicuramente a andarci, però chi lo sa, anche quello, anche cioè mi sono messo anche altri obiettivi, tipo non so, mi piacerebbe anche prendere un diploma in ragioneria, saranno obiettivi magari non riuscirò a raggiungere, però chissà. Mi stai studiando? No, non sto studiando, no. E poi l'altro sarebbe, siccome mi piace molto giocare a scacchi, quindi mi piacerebbe fare un corso per imparare a giocare a scacchi, perché se mi dicono muovi da uno a due, per me quello è battaglia navale, non è scacchi, quindi quindi mi piacerebbe imparare le regole, mi piacerebbe fare tutto, anche se veramente ho insegnato a tantissime persone a giocare a scacchi, questo devo dire, tante persone. Senti. E oggi invece sono vicepresidente del team Stella Speciale. Che cos'è il team Stella Speciale? Spiegalo ai nostri ascoltatori. Una società accreditata a Special Olympics Italia. Tu sei vicepresidente di questo team, che è di fatto quello collegato alla squadra di calcio, quindi? Sì, esatto, dove faccio calcio, dove faccio nuoto, dove faccio basket e pallavolo unificato, sì. La settimana scorsa abbiamo fatto i giochi regionali di nuoto a Cagliari, quindi eravamo in 107 atleti, tra atleti e partner, quindi torniamo al discorso tra atleti con disabilità, atleti senza disabilità, sì. Con i partner, che si allenano durante l'anno con noi e poi fanno le gare lo stesso con noi, questo è Play Unified, quindi giochiamo insieme. Senti Luciano, una cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo è il giuramento vostro di chi partecipa a Special Olympics, lo puoi raccontare anche ai nostri ascoltatori perché è molto bello e si sente proprio il sapore della vera lealtà che dovrebbe esserci sempre nello sport quando uno gareggia. Il giuramento fa che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze. E tu hai fatto proprio questa cosa, tu hai tentato con tutte le tue forze e ce l'hai fatta. Sì, ogni volta, anche gli allenamenti che faccio tutti i giorni, quotidianamente, ce la metto tutta, anche se è un allenamento, anche se può essere una partita che non conta, perché magari, no, io ce la metto tutta lo stesso, quindi per me è come se fosse una gara, anche un allenamento. Perché poi alla fine è quella la vera ricchezza del partecipare a un evento sportivo, è mettercela tutta, essere leali, sì, con se stessi. Assolutamente sì, hai ragione, sì, infatti. Ma Luciano, volevo chiederti questa cosa, se tu potessi riavvolgere il nastro della tua vita, no? Cosa diresti a coloro che in passato ti hanno discriminato, emarginato, preso in giro, come, che ti hanno costretto a vivere da solo in qualche modo perché ti prendevano in giro? No, niente, perché poi mi sono rifatto durante gli anni, quindi no, le soddisfazioni che ho avuto durante gli anni no, li posso anche superare, insomma, quindi no, non ho niente da dire. Quello che ho da dire lo dico sempre in faccia, quindi sul momento, quindi, ripeto, fino a quando erano bambini non mi interessava, ma io erano adulti, poi mi arrabbiavo, mi feriva molto. Quindi... Senti, come sta cambiando secondo te il mondo oggi rispetto alla disabilità? Secondo te c'è più attenzione, c'è meno attenzione? Come lo vedi tu? Ma io sono, non tanto che c'è più attenzione, c'è sempre qualcosina, sento magari in televisione, cose di bullismo, questo, però penso che sia molto migliorata rispetto agli anni passati e questa è una cosa favorevole, insomma. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederti era se tu volevi parlare del calcio unificato dell'11 e 15 luglio alla Spezia, giusto? Parteciperai? Sì, sì. Raccontaci, perché so che ci tenevi molto a dire questa cosa. Sì, praticamente sì, ci sarò, adesso vedremo quanti saremo, però ci saremo sicuramente alla Spezia. Adesso, ripeto, il problema è il trasporto, quindi ho nave o aereo, quindi dobbiamo vedere anche quei costi. L'anno scorso, come diceva lei in occasione degli European Football Week dell'anno scorso, praticamente siamo scesi in campo tutti i team della Sardegna. Sono scesi in campo 22 giocatori con i giocatori del Cagliari e della Spezia, e mentre nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo siamo scesi in campo altri 22 giocatori facendo 11 contro 11 per una dimostrazione con gli atleti Special Olympics, insomma, anche sempre unificato, quindi è stato bellissimo, speriamo di ripetere anche quest'anno l'evento. Senti Luciano, io intanto ti auguro veramente tanti in bocca al lupo, tantissime prime bellissime volte come quelle che hai raccontato, e mi auguro anche che questa nostra chiacchierata possa essere d'aiuto e servire a sbloccare magari qualche esistenza che in questo momento è chiusa, isolata, che si avvicini a questa avventura a Special Olympics. Basta cercare su Google Special Olympics, venite mandati in questa pagina, poi lì trovate tutti i riferimenti. Il nostro tempo a disposizione è finito. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio a lei, a voi. E ringrazio gli ascoltatori per essere stati con noi. L'appuntamento è sempre domenica, sempre alle 23. Ciao a tutti.